prenderò e io ritrovo ancora strada dentro me. Quello che sento adesso in un mondo di ironia, devo rincorrere un sogno che non ho. Ma con te, incrociando gli occhi tuoi, posso ancora dimostrare che non ho una paura anche per noi, che non mi nasconderò nei sogni miei, negli occhi miei. Sento una strana melodia, quella di un soffio di vento nell'anima. Dentro te, avverando i sogni, scoprirai il segreto che non è tutto come volevi tu. Quello che succederà nei giorni miei, negli occhi miei. Lasciami andare, ogni nota è un'arma per mandarti. Non mi cercare.